Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria chiaramente parleremo, l'abbiamo già fatto anche un mese fa circa, dei problemi che creerà, chiaramente il tema è più grande, mi riferisco al Brennero, ma ha un côté, un lato, un aspetto anche e soprattutto economico, oltre che politico e di proiezioni sui rapporti all'interno dell'Unione Europea. Ha un fronte anche economico, perché non sfugge a nessuno, e già la Conftrasporto aveva lanciato l'allarme in tempi non sospetti che tutto i nuovi controlli, non si capisce ancora quando partiranno esattamente, ma insomma la fine della frontiera libera tra Austria e Italia porterà anche dei grossi problemi al traffico merci. Ogni anno transitano dal Brennero 2 milioni di camion e 8 milioni di auto. Tutti ci concentriamo in questo momento sul confronto anche politico tra l'Austria, un'Austria ancora sotto shock, diciamo così, dopo le elezioni, e il nostro governo. Però il danno economico immediato stimato come primo danno è di 170 milioni di euro l'anno a causa dei ritardi nel passaggio. Il rischio, poi, inutile girarci attorno, è che questi soldi vengano scaricati, questi costi aggiuntivi vengano scaricati poi sul costo complessivo delle merci trasportate, e questo è un primo fronte. Poi abbiamo fatto una facile battuta l'altro ieri: arriva l'estate, o meglio arriva la primavera, ci si avvicina l'estate, e riemerge il caso greco. Dico facile battuta perché purtroppo ormai è dal 2011 che ogni maggio, giugno si ripresenta il caso greco, e quest'anno non fa eccezione. Oggi la borsa di Atene è in calo dopo il rinvio dell'Eurogruppo, del vertice tra i ministri economico-finanziari dell'area euro, dove si è potuto discutere della prossima tranche di aiuti alla Grecia, e anche sulla base delle ulteriori misure che il governo greco deve attuare per ridurre il debito. La National Bank of Greece oggi è arrivata a perdere anche l'8% in borsa. Dopo il rinvio, il premier greco Tsipras ha chiesto al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk la convocazione di un vertice straordinario. A stretto giro però è arrivato il no del ministro delle finanze tedesco Schäuble. Ne parleremo più avanti, ma insomma entro il 30 giugno Atene deve ripagare circa 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, sono in 4 rate, per a sua volta sbloccare una tranche di aiuti da 7,2 miliardi. Poi entro il 20 luglio deve rimborsare 3,5 miliardi la Banca Centrale Europea, anche in questo caso per sbloccare una seconda tranche di aiuti da 5,7 miliardi. I rappresentanti della Troica hanno chiesto appunto tagli per altri 3 miliardi di euro al governo greco se Atene non dovesse rispettare gli obiettivi di bilancio fissati da qua al 2018. Però il quotidiano greco Katimerini riferisce che la Banca Centrale Europea avrebbe iniziato a comprare anche titoli di Stato delle banche, o meglio, scusatemi, dalle banche elleniche, avrebbe comprato titoli di Stato emessi dal fondo Salva Stati e utilizzati per ricapitalizzare sostanzialmente le banche greche, con una prima tranche da 2,5 miliardi di euro. Anche di questo parleremo nel corso del programma. Come sempre, la borsa in apertura si avvia a chiudere in rialzo leggero dello 0,30% Milano, Parigi più 0,50%, Francoforte più 0,30%. L'America in questo momento perde invece sul Dow Jones lo 0,27%. Tra i titoli segnalo oggi molto forte ST Microelectronics più 9%, segue ma staccata Finmeccanica più 2,70%. ST Microelectronics guadagna per i risultati dei primi 3 mesi dell'anno, nonostante una perdita di $41 milioni contro il rosso di $22 milioni di un anno fa. Quindi il dato è peggiore rispetto a un anno fa, ma come poi commenteremo, la borsa va a comprare il titolo, si aspettava di peggio. Per quello che riguarda gli altri titoli, oltre a Finmeccanica, domani l'assemblea degli azionisti più 2,81, Saipem più 2, Fiat Chrysler più 1,5 come CNH, Prysmian più 1,40, Snam più 1,20 come Eni e Tenaris, ma anche Enel guadagna 1,20. Le banche oggi sono in ordine abbastanza sparso, nel senso che Unicredit perde il 2,80%, Pop Emilia Romagna 2,20, Banco Popolare meno 1,70, poi però c'è Pop Milano che cede solo lo 0,90, Ubibanca perde lo 0,60%, Monte dei Paschi guadagna lo 0,60%, Intesa San Paolo più 0,20%. Nel giorno in cui, lo dico perché ha segnato un pezzo, comunque uno la pensi, è importante della storia bancaria e non solo di questo paese, oggi il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, nel diciamo dare il suo commento sulla sua esperienza, ha ricordato che una banca non può essere un'isola felice in un sistema di crisi. Nel frattempo, tra l'altro, è arrivato anche durante l'assemblea degli azionisti la conferma da parte del numero uno Carlo Messina per Intesa San Paolo, il piano già annunciato è 4 miliardi di cedola, l'obiettivo di 4 miliardi di dividendi da distribuire nel 2018. Sul fronte dei mercati, ma in questo caso delle commodity, quindi delle materie prime, segnalo che il petrolio, oggi per la prima volta è risalito a quota $45 al barile il petrolio americano WTI, non capitava da novembre a questa parte, in rialzo del 2% anche oggi. Di questo beneficiano in parte le società petrolifere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo come sempre dall'economia internazionale. Mentre in Gran Bretagna, anche in Gran Bretagna, l'economia rallenta, il primo trimestre ha fatto un più 0,4%, è più debole dell'ultimo trimestre del 2015, ma è in linea con le previsioni. Nel frattempo, sempre a livello europeo, sabato scatterà il nuovo taglio deciso dall'Unione Europea dei sovraccosti del roaming, ossia i costi che si pagano quando si utilizza il proprio cellulare, il proprio telefonino in un altro paese dell'Unione Europea. L'ultima tappa per la fine completa di quello che l'Unione Europea chiama il balzello, ed è la fine di questo del roaming, è fissata per giugno dell'anno prossimo. Per la prima volta il traffico voce, SMS e dati verrà contabilizzato all'interno dell'abbonamento che ognuno di noi ha, senza più essere considerato un extra con tariffa a parte. E il nuovo tetto massimo dei costi extra che le compagnie telefoniche potranno imporre sarà di 3, forse 4 volte inferiore a quelli attualmente in vigore quando si viaggia all'estero e si usa il cellulare. E dal 30 aprile infatti potranno imporre per le chiamate al massimo 5 centesimi contro i 19 centesimi attuali, sempre IVA esclusa, 2 centesimi per gli SMS contro i 6 centesimi attuali e 5 centesimi per i dati contro i 20 centesimi attuali. E visto che parliamo di telefonia, un altro tema che affronteremo oggi riguarda il tonfo dei titoli, diciamo, dei grandi colossi dell'information technology, nello specifico Apple, che è arrivata a perdere quasi il 7%, i ricavi sono scesi dopo aver diffuso i dati per la prima volta dal 2003 e ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in calo a 10 miliardi di dollari, sempre un utile impressionante ma in calo. E qui c'è tutto il tema delle vendite dell'iPhone, che sono calate per la prima volta nella storia di questo modello di telefonino, senza essere compensate da altri dispositivi. Va malissimo oggi in borsa anche Twitter, meno 15%. I primi tre mesi del 2016 sono chiusi con una perdita, il sito viene chiamato microblogging, comunque per Twitter una perdita di quasi 80 milioni di dollari contro un rosso di 164 milioni nello stesso periodo del 2015. Sostanzialmente i profitti sono passati dai 7 centesimi per azione a 15 centesimi, però nonostante i dati siano migliori di quanto non si attendesse il mercato, il titolo continua a perdere e oggi, se non ricordo male, presenterà a borsa americana chiusa i conti anche Facebook, che è pure essa in calo oggi in borsa. Allora, torniamo ai temi europei. Sul settore auto invece, oggi veniamo a sapere che il governo tedesco promuoverà incentivi da 4.000 euro per chi acquisterà un'auto elettrica e da 3.000 euro per chi sceglierà un modello plug-in. Lo ha annunciato il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, chiarendo che si tratta di un accordo raggiunto fra il governo e l'industria dell'auto. Visto che parliamo di Schäuble, che poi ha già dato il suo nein, il suo no, a un vertice straordinario sulla Grecia, vorrei farvi ascoltare un passaggio. Ieri il numero uno della Bundesbank, Hans Weidmann, la Bundesbank, la banca centrale tedesca, era in Italia, c'era un ricevimento nel consolato tedesco e ha parlato in maniera anche abbastanza piatta sulle differenze, su quello che lo distingue tra distingue la posizione tedesca dalla posizione italiana, anche dal ministro dell'economia e finanze italiano Padoan. Dunque, un'unione fiscale europea vede ostacoli enormi e al momento non vedo la volontà di superare questi limiti né in Italia né in Germania né in altri paesi. E poi ancora le idee che ha il ministro dell'economia italiano Padoan sulla condivisione dei rischi fra gli stati dell'area euro senza un meccanismo rafforzato di controllo comune sono troppo ottimistiche. Sarebbe un rischio, un percorso sbagliato condividere i rischi senza un controllo comune. È sempre assurdo considerare i titoli di Stato risk free, cioè non molla. Qui il tema è molto delicato e lo dico in maniera volutamente polemica. Mentre la Germania ha fatto pressioni sull'autorità bancaria europea in modo che le banche, e quindi quelle tedesche in primis, Deutsche Bank in primis, che hanno prodotti altamente rischiosi come tutti i prodotti derivati, non venissero penalizzate da questo, chiede la Germania che invece le banche, quindi in primo luogo quelle italiane e spagnole, che hanno molti titoli di Stato o che hanno titoli di Stato, non possono considerare come adesso l'investimento in titoli di Stato privo di rischi, risk free. La crisi ha dimostrato quanto assurda sia l'ipotesi di considerare privi di rischio i titoli di Stato dell'area euro. Loro vorrebbero che, insomma, le banche che ha titoli di Stato accantonasse, mettesse da parte un po' di liquidità anche per il rischio sui titoli di Stato, che in questo momento invece è l'unico investimento che la banca fa senza dover accantonare. La spiego male, ma cerco di spiegarla. Ora, è chiaro che questo sarebbe una penalizzazione enorme per le banche italiane, perché vorrebbe dire tirar fuori altri soldi e quindi magari anche altri aumenti di capitale per mettere delle riserve sui rischi eventuali di titoli di Stato, mentre, diciamo, Weidmann non ha mai detto nulla sui derivati in pancia, che a noi risulta essere ancora tantissimi, in pancia al colosso tedesco Deutsche Bank. Lo dico perché quando Weidmann, adesso lo ascoltiamo, dice, insomma, non si può ritenere che sia completamente privo di rischi un titolo di Stato. È ovvio, anche uno Stato può fallire, però se dobbiamo ragionare in questo modo, allora ragioniamo su tutto, perché, voglio dire, se fallisce lo Stato Italia non c'è più l'euro, se fallisce lo Stato Spagna non c'è più l'euro, non ci sono più titoli di Stato, va bene, ma insomma non ci sono neanche più le banche, ma forse nemmeno la Germania riesce a tenersi in piedi in questo modo, no? Perché è stata la Grecia per mandare in crisi l'intero continente, per cui di cosa stiamo... sarebbe come se dicessi, beh, non è che posso considerare il camminare da qua al mio ufficio privo di rischi. Certo, uno può inciampare e farsi male, ma tendenzialmente quando fai un'assicurazione la fai su dei rischi più plausibili, non sul rischio che tu esca di casa e inciampi, diciamo, sul gradino di casa tua, per carità, se no assicuriamo tutto e allora ridiscutiamo anche come sono conteggiati in bilancio gli investimenti fatti in derivati dalle principali banche tedesche. Comunque, ascoltiamo Weidmann, che è sempre un po' strabico quando parla di Italia e di Germania, presidente della Bundesbank, lo ha ribadito oggi. Sentiamo un pezzo di questa intervista. I mean, what we saw in the crisis is there was a doom loop. Durante la crisi ci siamo resi conto di come esistesse un circolo vizioso tra banche e governi che ha amplificato la crisi. I governi dovevano sostenere le loro banche in difficoltà, ma allo stesso tempo i governi con un alto debito hanno creato problemi alle banche, proprio perché queste avevano molti titoli di Stato. Questo è il circolo vizioso che dobbiamo interrompere. Una parte della risposta è l'unione bancaria e il meccanismo di supervisione e risoluzione unico. Dal mio punto di vista, però, dobbiamo tagliare anche il legame che va dagli stati alle banche. Questo significa che le banche non devono accumulare così tanto debito dei loro stati come hanno fatto in passato. Dobbiamo quindi cambiare le regole che riguardano i titoli sovrani, che ora ricevono un trattamento preferenziale rispetto al debito privato. Questo significa anche che è più conveniente prestare soldi agli stati che ai privati. Vabbè, io devo stare tranquillo oggi. Però, insomma, è inaccettabile che ogni volta che parla Weidmann e ogni volta che parla Schäuble si dimentichino per caso, in questo sono molto italiani, di ricordare che hanno salvato le loro banche con 270 miliardi di soldi pubblici tedeschi. Allora, chi era messo male? Dopodiché le nostre hanno tutto un percorso, per alcune di esse è un Golgotha più che un percorso. Però dico, chi le ha salvate queste banche? Chi ha aiutato le banche tedesche? Il governo tedesco. Mi fanno notare gli ascoltatori, anche adesso l'aiuto alla BMW che vuole uscire con la macchina elettrica mentre l'ibrido della Toyota. Vabbè, ma quelli sono incentivi, li abbiamo fatti anche noi sulla parte ecologica. No, ma dico, è incredibile pensare che adesso il problema sono le banche che avevano troppi titoli di Stato e non, diciamo, quello che avete fatto voi con i soldi che avevate e ve lo potevate permettere, perché a quel tempo non c'era ancora il bail-in sulle vostre banche. Io non so, un po' di prudenza, o almeno di onestà intellettuale. Vabbè, intanto in Italia abbiamo collocato bot a 6 mesi, il tasso ha raggiunto un nuovo minimo, meno 0,172%, vuol dire che tu ci perdi anche a livello nominale finanziare il debito italiano a 6 mesi, assegnati 6 miliardi però contro, e una domanda da 10 miliardi e mezzo, quindi buona la domanda. Invece il dato non buono riguarda la fiducia dei consumatori, che ad aprile è peggiorato di nuovo a 114,2 punti dei 114,9, è migliorato invece il clima di fiducia delle imprese, soprattutto quelle che operano nel turismo, mentre è calato il clima di fiducia delle imprese che operano nel commercio al dettaglio. Questo, insomma, fa il paio con il calo della fiducia dei consumatori. I 100 secondi di oggi li ascoltiamo dopo, sono su un tema molto italiano, cioè molto italiano, sul tema delle pensioni, che continua a essere dibattuto. Sapete come la pensa chi vi parla, diciamo, chi si parla di pensioni solo quando si hanno le coperture in mano e si sa quello che si vuole fare. Invece il governo mi sembra che ne stia parlando troppo e male, troppo e tanto, con anche continui scivoloni, e questo non fa che aumentare l'incertezza. Poi voglia far ripartire la fiducia degli italiani. Comunque, prima di arrivare alle pensioni, vorrei collegarmi con il Brennero. Ora è difficile collegarsi con il Brennero, nel senso che, però, con chi sta seguendo da questa mattina per Radio 24 la situazione al Brennero, e quindi Andrea Ferro. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. Beh, hai un collegamento perfetto. Vero? Io sono molto attrezzato. Bene, no, perché delle volte non riusciamo a parlare alla Camera dei Deputati, invece al Brennero sembra che tu sei in studio. Grazie anche a Paolo Uge, che è presidente di Conftrasporto, la confederazione che raggruppa le associazioni del mondo del trasporto, della spedizione e della logistica. Buonasera Uge. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, io so che lei ci deve lasciare, quindi vorrei capire innanzitutto, ribalto l'ordine degli interventi, chiedo a Andrea Ferro di aspettare ancora qualche minuto. Che cosa temete? Perché io ho visto una stima di 170 milioni di euro di danni. La battuta, diciamo, per fare l'avvocato del diavolo, è vabbè, però, cioè, il mondo del commercio esisteva anche prima di Schengen, e chi ha fatto il Brennero prima di quegli anni sa che c'erano dei controlli, un po' come quando si va in Svizzera, i controlli ci sono. per cui uno potrebbe dire, vabbè, ma non è la fine del mondo. Voi temete che il danno possa essere superiore a questi 170 milioni di euro? Teniamo che per ogni ora che si perde per attraversare il Brennero, il danno per l'autotrasporto sia di 170 milioni. Ricordo che Schengen è stato fatto per dare competitività al sistema europeo. Se noi rintroduciamo elementi che rallentano il passaggio dei confini, torniamo a perdere competitività non solo come Italia, perché noi abbiamo anche la Svizzera da attraversare che sta introducendo la riduzione dei punti doganali, esattamente 12, e quindi rende più difficile la permeabilità delle merci italiane verso i mercati europei. Ma se noi facciamo questo, è il sistema europeo complessivamente che perde competitività. Siamo quindi preoccupati innanzitutto come italiani, ma anche come europei. Se vogliamo che l'Europa competa con le altre economie del mondo, bisogna renderla più veloci i collegamenti. Sì, faccio notare che l'Italia previene il secondo partner commerciale dopo la Germania, che comunque ha ripristinato i controlli. Il presidente della Camera di Commercio Federale Austriaca, Leitl, prevede un danno di 1,2 miliardi di euro per l'economia austriaca. Le imprese, i suoi colleghi austriaci stimano già un danno attuale di 2,5 milioni di euro al giorno, che salirebbero 8,5 milioni di euro al giorno con la chiusura generalizzata. Tra l'altro, già lo scorso inverno, qui parlo del turismo, il turismo in Tirolo ha fatto meno 30% di presenza a causa, dicono, dei controlli introdotti dalla Germania. Guardiamola in chiave più prospettica. Viste le dichiarazioni oggi, visto quello che è successo in Austria con le elezioni, dove ha vinto la destra, insomma, oggi conferenza stampa. E hanno ribadito gli austriaci che i controlli di confine al Brennero da parte delle autorità prevedono uno stop forzato dei treni a Steinach dopo il confine, e i relativi ritardi saranno inevitabili, ha detto il capo della polizia tirolese Helmut Tomac. Tra l'altro non è ancora sciolto il nodo degli agenti austriaci in territorio italiano. L'autostrada invece tra Brennero e Austria prevede 4 corsie, 2 per i tir e 2 per le auto nel momento in cui arriveranno i controlli a vista. Volevo dire, Renzi ha ribadito che chiudono contro le regole dell'Unione Europea, e poi adesso ascolteremo anche altre dichiarazioni. Perfino la Boldrini è intervenuta dicendo: è una resa dell'Unione Europea, l'Austria ci deve ripensare. Ma Gentiloni ha detto: no, decisioni unilaterali dell'Austria. Avramopoulos, che è il commissario europeo all'immigrazione, ha detto: l'Italia si prepari, da gennaio sono più o meno stati 25.000 gli sbarchi, ma tutti gli hotspot dovranno essere funzionanti, gli arrivi sono in aumento. Non mi sembra, Uge, che anche la vostra protesta possa portare a qualcosa. Non esiste un modo, so che la domanda forse è utopistica, ma un modo per rendere il meno doloroso possibile questo impatto? Beh, innanzitutto bisognerebbe evitare di fare delle dichiarazioni inutili come i nostri politici ci abituano tutti i giorni a dover registrare, e cercare di intervenire per quanto riguarda almeno lo spostamento delle persone, delle merci europee. Noi abbiamo avanzato una proposta, l'ho portata addirittura settimana scorsa alla rappresentanza italiana a Bruxelles. Cioè, noi proponiamo un corridoio attraverso il quale cittadini europei che guidano automezzi europei di imprese europee possono circolare liberamente, e invece imprese e quindi automezzi di imprese extra Unione Europea debbono certificare 7 giorni prima che impresa è, che autista la guida, che merce trasportano, dove vanno, quanto tempo debbono fermarsi, cosa che l'Austria aveva proposto di introdurre per verificare se i dipendenti autisti rispettavano il salario minimo che l'Austria voleva introdurre. Allora, questo sistema di fatto ridurrebbe molto l'impatto e garantirebbe all'interno dell'Unione Europea la libera circolazione delle merci, limitando i controlli e rendendoli più significativi per quelli che vengono da paesi. Cioè, lei dice solo i camion, per farmi capire, e l'autotrasporto che non è interno all'Unione Europea? Esattamente, che proviene da paesi dell'Unione Europea e che è realizzato da imprese dell'Unione Europea. Ok, ma su questa proposta l'avete fatta al governo? Certo, ma siccome sono impegnati a discutere di altre cose o rilasciare dichiarazioni molto roboanti ma che poi non producono niente, perché dire l'altra non lo può fare, attenzione perché noi ripartiamo, tutte queste belle dichiarazioni che sentiamo, ma se non si prende un'iniziativa a livello comunitario seria, voglio dire, è chiaro che poi non si porta avanti nulla. Noi riteniamo che questo aspetto debba essere approfondito e siamo pronti a farlo, lo abbiamo fatto e in Europa, guarda caso, abbiamo anche ottenuto l'attenzione dei rappresentanti parlamentari austriaci, che hanno detto ma no, è una proposta sulla quale si può affrontare e discutere. Quindi andare a distinguere, diciamola tutta, tra autotrasporto e autotrasporto e dare una corsia preferenziale, se posso esprimermi così, per chi è originato in Italia e non ed è comunque in area europea. Esatto, proprio questo. Mi dica un'ultima cosa, perché vedo molti ascoltatori che sì, me lo chiedono al 349-238-6666. Il rischio che i costi più alti vengano scaricati sulle merci? Ah, questo non c'è dubbio, perché l'autotrasporto ha due costi. Uno è quello del fattore tempo, quindi deriva dal tempo. Più tempo ci metto, meno le merci sono competitive. E l'altro è originato dal tempo che io passo in coda o fermo al confine, e questo vuol dire 35-40 euro all'ora di maggior costo per l'impresa di autotrasporto. Sì, mi fanno notare che l'Austria non controlla le merci, controlla se nei camion ci sono immigrati. Chi guida il camion può essere anche europeo. Sì, ho capito, però voglio dire, se proviene dall'interno dell'Unione Europea, i migranti vengono da fuori dall'Unione Europea, devono entrare nell'Unione Europea e quindi i controlli devono essere fatti là. Cioè, mi pare che sia un'obiezione. Cioè, la vostra proposta è solo se il camion già proviene con le sue merci, diciamo, le ha caricate in nell'Unione Europea. Europeo, proveniente da un paese europeo. Chiaro questo. UGE, da questo punto di vista, mi sembra che nulla si stia sbloccando. Adesso chiedo anche, dopo il meteo e la pubblicità, conferma Andrea Ferro. Mi dica una cosa che non c'entra nulla col brand, ma visto che voi siete un indicatore anche importante di quelli così empirici sull'andamento economico, come sta andando il traffico merci? C'è una leggera ripresa, siamo intorno a un aumento del 3-4%. Che sappiamo che questo è un indicatore, insomma, quando riparte un po' l'economia, ripartono anche. Di solito è così. Prima l'autotrasporto, quando si produceva per stock, diciamo, riprendeva dopo e la crisi la sentiva chiaramente prima. Oggi con la consegna delle merci in tempo reale, diciamo che è proprio un indicatore che ci dice come sta andando l'economia, che era quasi in tempo reale. Allora, grazie. Sì, qualcuno mi chiede, ma l'Europa? No, l'Europa, a parte fare dichiarazioni, dire che non si può, che è sbagliato, insomma, non mi sembra che sanzioni siano partite sanzioni nei confronti dell'Austria, di quelle da ricordarsi. No, perché adesso poi parleremo di Grecia, io non voglio mettere sullo stesso piano l'Austria e la Grecia, ci mancherebbe. Però se parliamo di violazione degli accordi europei, beh, non è che ci sia solo la violazione degli accordi economici, quindi il caso greco, quanto ristrutturi il tuo debito, fermo restando le difficoltà. Ci sono violazioni anche di altri accordi, per cui insomma è sempre un'Europa che si sta, diciamo, non dico uccidendo, ma si sta facendo del male da sola. Su questo abbiamo pochissimi dubbi. Grazie Paolo Ugè. Andrea Ferro resta con noi, tanto dal brand non si sente benissimo, ho il metro, la pubblicità e poi ci racconti che cosa è successo, ma soprattutto i tempi, perché sui tempi, su quando inizieranno, qualche dubbio resta ancora. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. I controlli proprio per il traffico di persone, tutto questo ci garantirà una maggiore sicurezza, insomma, quindi saremo in grado anche di fermare eventualmente delle persone potenzialmente pericolose. Ora però stiamo cercando di collaborare con i colleghi appunto dei paesi vicinanti, proprio che ci garantiranno la possibilità di assicurare e rassicurare le persone che poi appunto verranno sottoposte a questi controlli. Il nostro obiettivo, come abbiamo già specificato in questa conferenza, è proprio garantire più sicurezza. Ci saranno vari punti di controllo, verranno fatte delle selezioni molto accurate, saranno controlli molto dettagliati. Come abbiamo sempre detto, i flussi delle persone che arrivano da sud verso nord e anche da nord verso sud verranno egualmente controllati. Cercheremo di controllare tutti i flussi che arrivano dall'Italia in tutti i momenti della giornata per verificare al meglio proprio il traffico delle persone. Ci saranno anche dei controlli ovviamente durante il fine settimana, tutti i momenti delle giornate della settimana verranno monitorati. Allora, questo è uno dei passaggi della conferenza stampa di oggi, a cui è partecipato appunto anche il capo della polizia tirolese Helmut Tomac. Devo dire che è un po' populista, però è vero che questa Europa che non riesce ad alzare la voce con l'Austria, ma fa sempre la forte con il debole e quindi con la Grecia, e tra l'altro è anche, insomma, l'Europa che si occupa della dimensione delle cozze, delle vongole, degli oli, dei cetrioli, però poi se c'è da prendere una posizione netta, dura con l'Austria, a meno che non decidiamo che ogni paese fa il che cavolo vuole, cosa che sta poi di fatto avvenendo, e basta così. Allora però eliminiamo anche tutti i burocrati europei con quello che ci costano, o questi commissari che sanno solo alzare la voce quando è facile. Poco fa l'Austria nel frattempo ha, con soli 4 voti contrari fra i socialdemocratici e tutto il sostegno dei popolari, il Parlamento austriaco ha approvato un inasprimento della legge d'asilo, ossia ci sarà anche la possibilità di dichiarare lo stato d'emergenza quando l'ordine pubblico e la difesa della sicurezza non possono essere più garantite a causa di un alto flusso di profughi. In questo caso nessun migrante viene più permesso l'ingresso e le richieste di asilo possono essere rifiutate ai confini e i profughi rispediti in paesi confinanti considerati sicuri. Qui si legge Italia, no? Allora, Andrea Ferro, insomma, quando partono questi controlli? Poi molti ascoltatori ci chiedono, ma esiste un sistema di cui mi sembra che si sia parlato in conferenza stampa che permette ai camion di viaggiare comunque a 30 all'ora, cioè di non fermarsi, e tu vai a vedere con i raggi infrarossi se ci sono dei corpi umani, chiaramente allora, vivi, mi sembra di andare nel macabro, ma è così, dentro il camion o dentro l'auto. Prego, Andrea. Allora, sul primo punto, quando succederà? Beh, questa è la madre di tutte le questioni, abbiamo provato a chiederlo, l'abbiamo ripetuta questa domanda, e loro, devo dire anche un po' beffardemente, ci hanno detto che dipenderà dall'esito del prossimo incontro che si svolgerà in settimana tra il ministro dell'interno Alfano e il suo omologo Sobotka, cioè della serie noi siamo pronti, questo è il piano, ci hanno fatto vedere le cartine, ci hanno dimostrato, diciamo così, la loro capacità organizzativa. Però non tocca alla polizia in sostanza decidere. Noi siamo pronti. Sì, però loro vorrebbero iniziare i controlli già nella parte italiana. Io ricordo, insomma, avendo una certa età, che prima di Schengen, tu quando col treno, per esempio, attraversavi un confine anche con la Francia, anche con appunto l'Austria, e l'accordo era che i gendarmi francesi o i carabinieri italiani montassero sul treno nella stazione quando eri ancora nell'altro paese, in modo da non far fermare il treno e andare a velocizzare, diciamo, questi controlli. Ma infatti la questione della ferrovia è una questione centrale, anche perché da quello che si è capito hanno la sensazione che molti migranti transiteranno attraverso la ferrovia e chiedono in sostanza che la pattuglia, diciamo, degli agenti austriaci sia estremamente nutrita già alla stazione di Fortezza, in modo da compiere già controlli molto accurati sui migranti. Qua c'è un problema di diritto internazionale, abbiamo capito che c'era un accordo, infatti accennavi che qualcosa del genere è sempre successo. Volta c'era un accordo, questo accordo combinazione scadrà a giorni, addirittura alla fine di aprile pare, e quindi sarà rivisitato alla luce delle nuove esigenze. E loro dicono, vabbè, se non ci consentite comunque di controllare i treni sul vostro territorio, li fermiamo un chilometro dopo. Abbiamo istituito già le basi per creare una fermata straordinaria, a quel punto chiaramente interromperemo il flusso dei convogli perché le controlleremo alla nostra maniera, uno a uno. Per quanto riguarda invece quello che chiedevano gli ascoltatori a proposito... Sì, mi scrive un ascoltatore che lavora, o lavorava per un'azienda che fa scanner sì, per i camion, sì, ci vogliono 8 minuti a camion. Allora, loro non dicono, è poco, eh? No, ma infatti, cioè, allora loro dicono: noi basterà deviare i camion, i mezzi pesanti, una volta usciti dall'ultimo tunnel sulla destra. A quel punto viaggeranno, peraltro alla stessa velocità anche le auto, a 30 km orari. Noi li controlleremo a vista. Quelli sospetti, non so bene come potranno nascere, ce l'hanno scritto, no, notoriamente, trasporto infatti, migranti, no? È chiaro. Esatto. Li incanaleremo ulteriormente all'interno di un piazzale e a quel punto li passeremo allo scanner. E poi ha detto chiaramente: se abbiamo dei sospetti, lo smontiamo. Alla ispettore Derrick, diciamo così. No, vabbè, il problema è che chiaramente qui c'è un paese sotto shock per l'esito elettorale, la misura era già stata presa prima, che va dritto per la sua strada. Non c'è solo la frontiera italiana, l'Austria, diciamo, si sente giustamente dal punto di vista geografico anche lo snodo di tutti i flussi dei migranti, ma io non, se posso permettermi, non è che me la prendo tanto con l'Austria, me la prendo con questa Europa che ha voce rauca, flebile, afona quando si tratta di parlare con i paesi in lingua tedesca, e invece ha sempre voce molto stentorea quando si tratta di parlare con paesi in lingua greca, per esempio, o lingua latina. Tutto qua. Resta con noi al traffico a proposito di camion. Focus Economia. Allora, sì, qualcuno mi scrive: ma non basterebbe su WhatsApp piombare i camion? Ecco, vedi, quando sento parlare di vagoni piombati, visto che abbiamo appena ricordato il 25 aprile la liberazione dal nazifascismo, ecco, vabbè, non voglio fare paralleli impropri, però cosa volete piombare i vagoni? Qualcun altro mi scrive che da quest'estate attraverso Svizzera, Austria e Germania in treno senza nessun controllo. Però Andrea Ferro, ma i lavori sono pronti, il problema è capire quando inizieranno questi controlli. Certo che l'Austria sta trattando con l'Italia, da quello che abbiamo capito, ci sono dichiarazioni sia di Renzi che dice è contro l'ipotesi di chiudere il Brennero, è sfacciatamente contro le regole europee, oltre che contro la storia, contro la logica e contro il futuro. Gentiloni, il nostro ministro degli esteri, ha detto in un'intervista al quotidiano austriaco Die Press: confidiamo che Vienna non prenderà decisioni unilaterali nei prossimi mesi, però Gentiloni le ha già prese, da quello che capisco io, e la Boldrini cita un'Unione Europea che si è arresa, l'Austria deve ripensarci. Dicevo, è solo un problema di tattica, da quello che si è capito oggi con lo Stato italiano, perché l'Italia non vuole i controlli nella sua diciamo, nel suo territorio, a questo punto come ripicca? Andrea. Ah, sì, certo, è praticamente l'ultimo ultimatum, anche se non è una bella espressione, o l'ennesimo ultimatum, se vogliamo dire. Nel senso che loro hanno detto molto chiaramente, poi parlano, voglio dire, in maniera molto chiara quando sono stimolati, hanno detto: noi non vorremmo creare nessuna barriera, anzi per noi comunque non sarà mai una barriera, noi intanto facciamo le fondamenta, poi vediamo cosa dice l'Italia, se accetta diciamo questa forma sinergica nei controlli, se poi questo non avverrà e quindi ci saranno le folle di migranti che premeranno verso il Brennero, allora saremo costretti a tirare su questa barriera. A questo proposito, barriera, attenzione, loro non vogliono che si chiami barriera, la chiamano reticolato. Sì, che la chiamino anche riesco, Maria, tanto quello sì, è. Sì, appunto, no, ma non riesco a capire. Ma sì, perché c'è un'ipocrisia anche nei cattolici tedeschi e austriaci, su, in quei cattolici, dico come partito, mi mancherebbe, non come religione. Perché questo è fortemente voluto dal Partito Popolare, che si è visto sotto smacco alle ultime elezioni. Faccio notare ai geni che mi stanno scrivendo, soprattutto uno: ma insomma, almeno in Austria controllano mentre noi in Italia non facciamo entrare chiunque. È un po' diverso controllare il passo del Brennero dal Mar Mediterraneo, ma questo vogliamo capirlo, nel senso che poi gli hotspot dobbiamo farli partire, alcuni sono in ritardo. In ritardo bisogna investigare che non ci siano, anche come è emerso da alcune indagini, che non ci sia chi ci specula. Però è inutile girarci attorno. Me lo spieghi come fai? Cosa facciamo? I controlli in mare sui barconi e li rimandiamo indietro agli altri barconi prima che affondino? O magari fregandoci? Non so, mi sembra una follia. È chiaro che quando tu hai il confine del Brennero o hai Tarvisio è facile, no? Anche su Tarvisio ci saranno controlli meno pressanti, ma anche su Tarvisio. Allora, Andrea Ferro, che si sentiva benissimo grazie a uno strumento che si chiama Codec, che stiamo amplificando, tu sì. Domani comunque, cioè, In questo momento non c'è nessun tipo di rallentamento, questo perché ce lo chiedono gli ascoltatori, la situazione è assolutamente, assolutamente regolare. Assolutamente, assolutamente. Anzi, c'è pure il sole, stamattina nevicava, quindi... Ecco qua i geni, l'Australia controlla l'oceano indiano. Allora, intanto l'Australia, gli sbarchi di migranti li ha nella parte, diciamo, nord del paese, perché vengono dall'Asia. Faccio notare che le distanze sono leggermente diverse. Faccio notare che qualunque migrante che sbarca, diciamo, sbarcasse nel Queensland o nella parte di Perth verrebbe divorato dalle bestie. Cioè, stiamo parlando di un altro mondo. L'Australia non ha Lampedusa, non ha la Sicilia a un tiro di schioppo dal Nord Africa. Ma di cosa state parlando? Sempre con l'Australia, andate a vedere cosa fa l'Australia, che poi ha una politica, insomma, in cui è pronta anche a cannoneggiare le navi. Ma è un altro mondo. O volete paragonare, diciamo, il fronte della Papua Nuova Guinea o dell'Indonesia, le distanze e il mare e quello che uno trova all'arrivo con il mar Mediterraneo. Va bene, Andrea Ferro resta al Brennero, nel senso che sarai d'accordo lì anche domani. Grazie intanto, GR24, e poi parliamo di Borsa, che nel frattempo ha chiuso in rialzo dello 0,40%. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora sì, vedo tantissimi messaggi sull'autotrasporto, sul Brennero. Adesso cambiamo tema. C'è anche chi mi scrive: basterebbe, ci vorrebbero dei cani addestrati contro i migranti a riconoscere, immagino, la presenza dei migranti dentro i camion, i treni. Sì, come no? Beh, certo, il camion che annusa e sente che uno è un migrante e l'altro no. Facciamo che istituiamo anche i cani che riconoscono e annusano i pirla, va bene? Così facciamo proprio. Allora, andiamo avanti. Occorre usare i cannoni contro i barconi, va bene, va bene. Prendiamo atto di tutto. Occorre usare i cannoni contro i barconi, occorre anche farsi meno cannoni, potrei aggiungere io, però adesso non voglio passare la puntata a polemizzare con gli ascoltatori. Più 0,43% Milano, più 0,60% Parigi, più 0,40% Francoforte, più 0,50% Londra, l'America più 0,11%, euro su dollaro quota 1,13, bene alcuni titoli, soprattutto ST Microelectronics, più 9,62%, nonostante dei conti non così esaltanti. Finmeccanica più 2,60, Azimut più 2,5, Saipem più 1,80 come Tenaris, Fiat Chrysler più 1,70, CNH più 1,60, Enel più 1,30 come le Poste Italiane e Prismian. Negative alcune banche, ripeto, in ordine sparso oggi: Unicredit meno 2, Pop Emilia Romagna meno 1,50, Banca Popolare meno 1,40, Unipol meno 1,20 per cento, Mediaset meno 0,95, Telecom Italia meno 2,60%. Come sempre il collegamento e il commento lo facciamo con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore, e c'è qualche spunto oggi. Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. ST Microelectronics perde 41 milioni di dollari nel trimestre, un rosso più alto, quasi doppio dei 22 milioni del trimestre 2015. Ma tra l'altro anche i ricavi netti sono in calo, eppure la borsa lo premia. Sì, esattamente, perché comunque quello che è piaciuto al mercato è stato il fatto che la società ha indicato di aver riscontrato nei primi mesi dell'anno dei segni di recupero, e in particolare alla luce di questi segnali S&P prevede un aumento sequenziale dei ricavi netti di circa, cioè di un valore intermedio di circa il 5,5%, quindi diciamo che nonostante il primo trimestre abbia avuto una flessione dei ricavi e un aumento della perdita, per il futuro comunque ha detto di poter recuperare, anzi di arrivare a un aumento dei ricavi. Ancora per quello che riguarda invece il titolo Intesa San Paolo, oggi c'è l'assemblea degli azionisti e ascoltiamo anche quello che insomma l'ascito forse troppo, ma insomma quello che è la memoria, è stato l'intervento di Giovanni Bazzoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo. Una banca non può essere un'isola felice in un sistema in crisi. Tra gli stessi economisti, la riduzione delle disuguaglianze prima era un invito. Ora è diventato un imperativo categorico per garantire la sopravvivenza dell'equilibrio sociale e ridurre le tensioni geopolitiche. In quella che è, Flavia, l'ultima assemblea degli azionisti di Bazzoli, che ricordiamo ha avuto un ruolo importante, fondamentale, poi uno può giudicarlo come vuole, nella storia del sistema bancario italiano, subentrò a uno degli scandali, se vi ricordate bene lo scandalo del Banco Ambrosiano, i titoli bancari oggi. Sì, appunto, i titoli bancari oggi, come dicevi tu, sono andati un po' in ordine sparso e sono stati contrastati. Unicredit è stato il peggiore del comparto con un calo del 2,12%, mentre invece uno dei migliori è stato MPS, che è salito dello 0,8%. Intesa invece si è mantenuta, diciamo, a metà tra questi, nell'andamento contrastato del comparto, ed ha chiuso piatta con un più 0,08%. E oggi appunto c'è stata l'assemblea che ha dato l'addio al duale come sistema di governance, e diciamo che il titolo è riuscito a reggere rispetto ad altri anche alla luce del fatto che Messina, l'amministratore delegato del gruppo, ha confermato la volontà di distribuire dividendi nel 2016 per 3 miliardi di euro, arrivando alla somma di 4 miliardi di euro per l'anno prossimo. Tra i titoli, Intesa San Paolo oggi ha confermato il piano per 4 miliardi di dividendi nel 2018. Tra altri titoli, Telecom in difficoltà, mentre il petrolio, tornato ai livelli più alti da novembre, lo dico a chi si fosse perso la prima ora, vede Eni fare più 0,90%, ma non solo, anche Saipem più 1,90%. Mediaset, oggi c'era l'assemblea dei soci, alla fine è risultata in calo di un punto percentuale. E l'altro titolo è Telecom Italia, Mediaset e Telecom Italia. Sì, appunto, Mediaset oggi sembrava partito bene nel giorno dell'assemblea e aveva avuto un'accelerazione negli acquisti, arrivando a un buon rialzo quasi del 2% dopo che Pier Silvio Berlusconi aveva dato le stime per la pubblicità, parlando di quasi un più 10% nel mese di aprile. Poi invece nel corso della giornata invece ha pagato probabilmente i realizzi e quindi alla fine è stato uno dei titoli penalizzati, ha perso lo 0,95%. Sono usciti anche delle indicazioni su quella che è stata la plusvalenza di Mediaset, circa 500 milioni di euro per la vendita di Premium, quindi visto che era un dato che non era mai uscito, probabilmente bisognerà aspettare di vedere le valutazioni che faranno gli analisti e gli esperti per capire se magari è un numero considerato positivo o negativo in riferimento ai conti di Mediaset. Mentre invece Telecom Italia ha perso il 2,6%, e la notizia che un po' ha fatto scatenare le vendite è stato il rinvio del CDA sulla trimestrale, che era previsto per il 5 maggio e verrà invece fatto il 13 maggio, e il presidente di Telecom Italia, Giuseppe Recchi, ha detto che questo rinvio è stato deciso perché stanno approfondendo bene i numeri. Sì, stanno approfondendo bene i numeri, evidentemente c'è qualche approfondimento in più da fare. Sul fronte invece Mediaset, ricordo che oggi Pier Silvio Berlusconi ha anche fornito cifre precise su Mediaset Premium, allora ceduta a Vivendi. Al momento della cessione aveva in cassa circa 100 milioni di liquidità, i diritti per la Champions League sono costati 600 milioni per 3 anni, e già da quest'anno l'operazione Champions sarà inutile. E poi il fatto che Premium nei primi 4 mesi del 2016 abbia registrato ricavi in crescita di circa il 20%. Abbiamo creato valore, Premium vale il doppio di RCS, di tutto il gruppo Espresso, e spiace dirlo anche di Mondadori. Sì, la battuta poi è chiara: se è così buona e crea così tanto valore, perché l'hai venduta a Vivendi? ma è solo una battuta. Migliori e peggiori oggi in borsa. C'era il caso, adesso vi do anche l'ultimo aggiornamento di se ho visto Beni Stabili, no, a un certo momento Flavia, mentre che era in netto rialzo, poi ha un po' ritracciato. Pininfarina più 19%, Steam Microelectronics più 9,60%, Industria e Innovazione più 9%, Zucchi più 6,20%, Fronte Opposto, Tewind meno 3,40%, Premuda meno 3,90% e Invest meno 3,90% anch'essa. Grazie a Flavia Carletti. Adesso, visto che è arrivata la primavera, sta arrivando l'estate, andiamo a parlare di Grecia. Allora, a chi scrive ancora sul tema dei migranti? Guardate che sono due cose diverse. Nessuno sta negando che la gestione dell'immigrazione illegale in questo paese sia un problema. E quindi quando mi scrive qualcuno dopo le 20 di sera in certi paesi non si può più uscire per la criminalità che si è legata all'arrivo di migranti, e quindi parliamo di migranti, chiaramente di migranti illegali nella stragrande maggioranza dei casi, nessuno sta parlando di un'accoglienza indiscriminata. Quello che si contestava all'Austria è che di fatto e anche di forma hai preso una decisione unilaterale fregandone della posizione europea, che invece è così dura con la Grecia, ne parleremo fra poco, e sull'Austria mi sembra silente. In questo modo, altro che le dichiarazioni di Weidmann e di Schäuble, l'Europa va a disintegrarsi se non c'è un piano unico sulla gestione dei flussi migratori. E non si può dire ai paesi che hanno il mare invece che il Brennero: arrangiatevi con gli hotspot, perché è un'Europa di puri egoismi, no? Tutto qua. Non si stava commentando l'impatto sulla sicurezza e quanto possiamo reggere i flussi migratori in questo modo, che è ovvio, ma è un ragionamento che devi fare a livello europeo, se ha un senso l'Europa, no? Va bene, sono una delusione per alcuni di voi, me ne faccio una ragione. Prima di tutto però andiamo a commentare, prima della Grecia, ancora un capitolo di borsa che riguarda i titoli tecnologici negli Stati Uniti. Apple, che è arrivata a perdere quasi il 7%, dati i ricavi che sono scesi per la prima volta dal 2003, del 13%, certo ha fatto un utile in calo, ma a 10 miliardi e mezzo di dollari. Inflessione a picco, anzi perdeva oltre il 15%. Twitter si sono chiusi con una perdita di 80 milioni di dollari i primi tre mesi dell'anno, e cala anche Facebook, che domani presenterà i conti. Andrea Cuturi, vicepresidente di Antilia SGR, buonasera. Buonasera. Resti con noi, ancora un minuto di traffico. Focus Economia. Allora, Cuturi, cosa sta capitando alle star, alle stelle dell'information technology che hanno scalzato nella classifica delle società più capitalizzate, colossi come General Electric? Mi riferisco appunto Apple, Twitter e Facebook. Sono casi diversi, le vendite di iPhone per esempio sono calate per la prima volta nella storia senza essere compensate. Twitter, a me sembrava che insomma, i conti fossero comunque in miglioramento. Facebook ripresenterà domani, ma era in calo anch'essa. Prego. Beh, sono tre storie molto diverse l'una dall'altra. Allora, Apple è sicuramente un'azienda che sta andando, come si dice in gergo, ex growth, quindi sta perdendo il potenziale di crescita. Lei menzionava i dati positivi dal 2003. A me fa ancora più impressione menzionare 51 trimestri di seguito di crescita costante. Questo sicuramente è un numero impressionante. C'è da dire però che la capacità di innovazione di Apple è andata un po' sfumando. Alcuni esempi: l'Apple Watch sembrerebbe essere un flop. Per la prima volta questa azienda ha dovuto abbassare i prezzi per iniziare a vendere seriamente il prodotto. Dopo l'invenzione dell'iPad non si è visto nulla di nuovo veramente interessante. L'iPhone può passare anche al 70° invece che al 7°, ma rimane, diciamo, rimane uno strumento di cui noi tutti, diciamo, siamo quasi schiavi, ma comunque quello è e quello rimane, quindi diciamo, la sua potenzialità di crescita è limitata. Quindi un'azienda che capitalizza circa 540 miliardi di dollari, più o meno uno stato sovrano, con una liquidità in pancia di più di 100, quindi il CFO di Apple, che oltretutto è un signore italiano, diciamo, ha più potere sul mercato che non il tesoro, direi che è un'azienda che inizia a smettere di crescere, è inevitabile, quindi o si inventano filoni nuovi, così come fece 10 anni fa, passando improvvisamente dai computer al telefono, cosa che non ha mai fatto fino a quel momento, oppure il suo destino sembra essere segnato da un rallentamento normale, evidentemente. È come il rallentamento della crescita della Cina, è un fattore aritmetico, non si può crescere sempre al 10-15%, quindi inevitabilmente cresce la base e quindi il tasso di crescita inevitabilmente diminuisce. Questo per quanto riguarda Apple. E per quello che riguarda invece Twitter e Facebook, cioè c'è il timore che l'intero settore produca multipli più bassi delle attese? I multipli li producono i prezzi e quindi alla fine il meno 15 di oggi inevitabilmente abbassano i multipli. I multipli si abbassano anche con gli utili, questo è ovvio. Secondo me Twitter è un caso particolare. L'azienda ha sbagliato quasi tutto nell'ultimo anno, ha perso metà del suo top management, ha richiamato il fondatore a fare il CEO, ha perso metà del consiglio di amministrazione. Questo signore sta rimettendo insieme i cocci, detto in gergo. A mio avviso, agli attuali prezzi, intorno a 15-14 dollari per azione, iniziamo a essere molto vicini al valore intrinseco dell'azienda. Ricordiamoci una cosa, la primavera araba non sarebbe stata la stessa cosa se non ci fosse stato Twitter. Quindi questo è uno strumento di informazione importante. L'anno prossimo l'NFL trasmetterà 6 partite solo attraverso Twitter. A noi non interessa nulla, ma è un po' come dire che la partita del campionato italiano di calcio il lunedì sera venga trasmessa solo da un info provider su internet in Italia. Questo è abbastanza una rivoluzione. Quindi a mio avviso Twitter è molto vicino a essere dei livelli di interesse come franchise value. Secondo me bisogna dare al fondatore il beneficio di inventario e la fiducia per un 6 mesi di lavoro per ritirare su l'azienda. Quindi qui c'è quello che in gergo si chiama il deep value, il valore profondo. Ecco un'ultima cosa, visto che molti ascoltatori qui hanno la memoria lunga, non c'entra nulla con i titoli internet, ma lei l'ultima volta che intervenne consigliò, lei ha detto io comprerò Monte dei Paschi, le ha comprate ed è soddisfatto? Giusto per sapere. Sì, le ho comprate e le ho vendute più volte, alla fine ho guadagnato, questo sì, ma è un titolo dove bisogna avere i nervi saldi e conoscere il mercato molto bene, perché i soldi si fanno quando i corti vanno a coprire, punto. I corti intesi appunto quelli chi è corto. Chi ha posizioni a breve, brevissimo. Ultima domanda. Il corto non necessariamente è breve, il corto può essere anche a medio-lungo, ma diciamo... nel momento in cui copre in 2 ore. E sulla Pop Vicenza, visto che domani scade, lei che idea si è fatta? Non ce la faranno a sottoscrivere? Cioè, diventerà di proprietà di Atlante? Non ho seguito da vicino la cosa, in quanto non è di mio interesse. Non le interessa proprio la Pop Vicenza? Vabbè, dai, insomma, però il giornale li avrà letti o no? Beh sì, i giornali li leggo, sì, conosco anche questi. No, per cui, ma lei ritiene che diventerà del Fondo Atlante a questo punto? Perché insomma, mancano neanche 24 ore alla fine dell'operazione. Non ho idea di come sia fatto il book, non mi stupirebbe che questo accadesse, però non ne ho idea. Va bene, va bene. Con decine di titoli quotati in Italia solo per le banche, senza le assicurazioni c'è già tanto lavoro da fare. Grazie anche a Andrea Cuturi, vicepresidente di Antilia SGR. Allora, ci avviciniamo all'estate, dicevo, e si riapre il fronte greco. Non posso ancora rispondere su i migranti. Ma il problema grande, Austria difende il suo paese e il suo popolo. Ho capito, ma allora diciamo che ognuno difende. Allora grande Grecia difende il suo paese e il suo popolo. Cioè, ognuno faccia i casi suoi, ma questo non solo sul fronte migranti, anche sul fronte legge di stabilità e quindi patto di Maastricht. Cioè, allora, se Tsipras deve ragionare così... manda a Remengo la troica, ok? Perché o tu hai degli obblighi europei o non li hai, o valgono per tutti o valgono per nessuno, tutto qui. Vittorio Darold, visto che parliamo di Grecia, tra l'altro poco fa Mario Draghi in un'intervista alla Bild ha detto: la mia nazionalità appassiona solo i media tedeschi, un grande, devo dire. Non c'è davvero nessuno al mondo che sia interessato al fatto che sono italiano, a parte i media tedeschi, e non gliela hanno andata a dire. Sta ripartendo il dramma greco o la telenovela greca? Sì, sì, sì, esattamente. Sta ripartendo, e ti dico subito perché. Perché la partita non è ancora risolta e il cosiddetto previsto Eurogruppo, che doveva essere domani, è saltato, e la richiesta del premier Alexis Tsipras di un incontro straordinario del Consiglio europeo, quindi i governi, non è stato accettato. La situazione, come al solito, è apparentemente tecnica, ma poi è politica, come dicevi tu, cioè la soluzione deve essere condivisa, europea. Che cosa chiede? Il Fondo Monetario chiede un'austerità supplementare anticipata, cioè vuole una clausola di salvaguardia di 3 miliardi di euro che deve essere approvata prima, una manovra concordata in anticipo in sostanza. Perché? Per raggiungere un avanzo primario del 3,5% nel 2018. E quindi potrebbe naturalmente non raggiungere quegli obiettivi. Però siccome il fronte è politico, la domanda è molto semplice, purtroppo abbiamo solo un minuto e mezzo, ma insomma, si arriverà come l'anno scorso al braccio di ferro, con l'aggravante che la Grecia deve anche gestire la parte principale dei flussi migratori che arrivano dalla Siria, e può anche dire: sapete che c'è? A sto punto è vero che gli ha messo le barriere in Macedonia e lungo tutti i Balcani, però insomma immagino che politicamente questa cosa verrà usata se dovessero andare allo scontro. Sì, esattamente. Qui ci sono due crisi che si stanno in qualche modo annodando. Quella dei migranti, perché ci sono 50.000 rifugiati in Grecia che sono rimasti intrappolati tra i domeni e appunto l'isola di Lesbo, e Tsipras che deve accettare questa ennesima. Qui siamo alla richiesta anticipata di austerità. Tieni conto che Tsipras sarebbe pronto ad accettarla, ma è il suo ministro delle finanze, Euclid Sakalotos, che rappresenta l'ala sinistra di Siriza, che ha detto: beh, aspettiamo almeno di vedere che non siamo riusciti agli scostamenti, facciamoli certificare dall'Eurostat. Quando l'Eurostat ci dirà che siamo fuori dei parametri, a quel punto noi facciamo le cose. Niente da fare, i creditori non mollano, no. E quindi siamo tornati. E Schäuble ha detto no a un ministro finanziario tedesco a un nuovo incontro straordinario sulla Grecia. Sì, esattamente. Schäuble, naturalmente, è lui che ha fatto saltare l'Eurogruppo, perché lo ricordiamo, un anno fa fu lui che chiese ad Atene di uscire, quindi disse per 5 anni fuori da forse il suo sogno è ancora quello. Sì, i tedeschi non mollano, non sono solo i greci, poi ognuno dia il giudizio che vuole. Oggi non voglio più parlare di tedeschi, però invece poco fa il portavoce del governo greco ha detto: la Grecia non ha problemi di liquidità immediati per far fronte alle scadenze. Comunque si è aperto ufficialmente, come si apre la campagna acquisti, così come è finito il campionato nel modo in cui sappiamo, si è aperto ufficialmente anche la nuova stagione della Grecia, che non è una stagione lirico né teatrale, è una stagione, diciamo, tragica e anche un po' folle per alcuni versi. Comunque grazie per ora Vittorio Darold. Grazie da Sebastiano Barigioni, lo auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.